questo è Tonino. Sì, buonasera, Cla. Ah, Tonino, senti. Buonanotte, ho sentito su 5, ma qua non ci viene quasi mai. Non ho sentito su 10. Su mia radio, qua era. Ah, poi abbassa, appena appena Cla. Ah, mia radio, fortissima, è. Il radio con la tua presentazione. Che con le MC 60 la sto usando con le MC 80. Ah ah. Ho dovuto attenuarti, perché era troppo rimbombante, capito? Addirittura, c'ho un micidino a metà. Fatti un conto. Allora se la porta così cosa succede? Ecco quello che succede, non succede niente, no? Non succede niente. Bassetta. Guarda di cosmi. Purtroppo, mamma. Io sono quel sacco mucchio, mi sono fatto la campagna. Cazzo. Fatto due di cazzo. Porta da prendere, cazzo, ma ci ho fatto una riunione a pizzi, che fa caleggiare, cazzo. Ma ci manco cane fa per da. Ho pulito un pochettino così che a me lo so più tranquillo, ma però adesso lo faccio più niente per un mese. Addirittura. Via via. Campagna è bella. Ho tenuto a conto, c'è Marì. Perché? La campagna è bella, ma vuole sempre da parte a me. C'è sempre da fare, no, ma io sono attrezzato io, c'ho tutta l'attrezzatura, caro mio, per cui, però il lavoro vuole fatto, anche se ci sono le attrezzature, purtroppo è così, sai, comincia tutto il giorno così, lui a gamba sera fai un rugno alla pizza, capito? Poi non siamo più, qua abbiamo più 20 anni, per cui le cose... a farle piano piano e finché lo riesce a finire. Oh, c'è sempre da fare, non manca mai, però io tanto non mi sgrida nessuno tanto, capito? Per cui se ne voglia ne faccio, se non no. Adesso me la ho pulita tutta qua e sono tranquillo, capito? Qualche cosetta c'è, ma quella magari qualche domenica che scende me la faccio piano piano e va benissimo, capito? Sì. Va a giocare, ma va bene, dai, va a posto andare a fare Tonino, mi divide di cose. Dai, ci sentiamo qua, ciao, buon proseguimento. Ciao, mio marito, ti sei sempre bene, che mi vuoi, dai. Io sono qua, comunque non c'è problema, dopo se coincide. Quando se mi ascolti con il barattino, mi ascolti. aspetta, aspetta, tatta, dove il cavo è? Ecco qua, tornato 34S, trovato. Perché ti hai rifatto la vita di tutto lì? No, dai, te l'ho detto, allora, ho provato, sperando che sia, se non quello, ma... Allora, ho provato, allora, il panellato l'ha esploso, è quello lì. Poi ci sono i due finali che servono per la regolazione dello switch, questi DC a 5, i due finali che sono, sono due, li ho cercati anche, li ho trovati, ma i lucri sono due, scusa se ne cavo, ma li ho segnati, non so se non come i denti, sono i due transitorini NPN, come cose, sono gli ubisti, quando ci vedo per avere domani che cercano domani, dopo ricercarsi a salire li dovrei trovare, se vediamo quanto ce li fanno pagare, perché su internet si trovano intorno ai 3 euro l'uno, capito? Quindi si può fare, per avere qua con la cacchiera. Qui costeranno 5 euro, 8 o 7, cosa cambia? Non so, provo a vedere. Non ci sono problemi, ciao Massimiliano. Ciao, buonasera, ho intanto due secondi, io devo scendere un attimino che sono arrivato qua al negozietto. Prendere due cosette dal volo e poi riprendo. Fabri, si potrebbe fare quel tornado 40 canali, siccome 34, 40 si può portare? Adesso guarda, se si comporta io te lo porto, nel senso se trovo le modifiche, io come dicevo l'altro giorno a Claudio, non è che lo monta, se trovo gli schemi con lo schema riesco più o meno a fare quasi tutto, proprio lo schema, se trovo lo schema e trovo come fare la modifica, te la faccio, non c'è problema. Positiva, dai, scendo, riprendo subito, allora, vai Cla, scendo un attimino. Dai, è positivo, c'era Giuseppe, mi pare che stiamo rientrando, Giuseppe. Attenzione, tornado. Buonasera Claudio, eccomi qua. Mi ritorno da Porto e Torres. Troppo rivisitivo, compagnia di Fabrizio, eh. Siamo qua, avanti Fabrizio. Ma Giuseppe, ben sentito, da dove stai rientrando? Porto Torres, Fabri, ciao anche a te, cordialità da parte mia, rientrando da Porto Torres, qui all'altezza di San Michele. Ho capito, la voglia, sta arrivando fortissimo. Positivo Fabri, tutto Roger anche da parte tua. Meglio vai, meglio vai. Stavo già arrivando fuori, San Michele, rientrando a Porto Torres, cioè la chiesa di San Michele. Positivo Fabri. Si alza 9:15 e passa sempre. Sta girando benino questa radiolina, già va bene, è piccolina, va bene, 40 canali, super omologata, poi l'ha vista anche Claudio, avanti Cla. Quale l'antenna tua? Le Baracchino Cla. Baracchino è piccolina, ma già funziona bene. Quante la stai usando? Quella la tua. Dovrebbe essere la Lafayette Pro, così c'è scritto qua nel programma. No, la radio, l'antenna. Ah, l'antenna, sto usando la PLC, la Minox, quella là è 80 cm, piccolina. Ce l'ho anch'io, te lo so, va veramente bene. Positivo, l'ho presa, l'ha preso quello di Cagliari. Quando te l'ha fatta pagare? Guarda, tra antenne e corriere mi pare che avevo pagato 40 euro. Quello tagliava a me. Positivo, poi è una cosa positiva anche avere qualche cosina noi qua in Sardegna. No, quello sì, comunque che buono, 40 euro la spedizione, va bene, se non mi ricordo quanto l'ho pagato, l'ho preso in rete. Oh, ditemi una cosa, ma c'è lo stesso attacco della PLC 800 per caso, o è più grosso, o è più piccolo? Io la lunga a casa, quella lunga, ma non la so più vedendo, cioè ogni volta che devo entrare in garage devi fare togli, metti, fai e cose. Guarda, ti dico la verità e ho ragione anche a Fabri, servizio. E con questa mi sono trovato abbastanza pericola. No, siccome c'è la PDC 800 su base magnetica, se prendo lo stilo, perché vendo anche solo lo stilo di quella, attacco la stessa base magnetica dove c'è l'attacco della PDC 800, uguale, tu fai così, Giuseppe? È positivo, io con la basetta che ho qua sulla capota metto questa e metto l'altra, sono uguali come attacchi. Perfetto, perché quando esco dall'armata è troppo grande quella là, capito? Troppo grande. Mi sembra che praticamente dove hai ripreso tu, Fabi? Sì, beh. Problema, a me le viene male perché per fare 40 metri, ma a te già viene bene, quindi ho scoperto diretta e mi porta via anche l'antenna. Come stai già nella botte, a cosa, come regina lo tocca guarda dire non amara. Ah, ti ho capito, vabbè. A fruttidini. Già, prima o poi già si sistemerà qualcosa. No, però la vuole evitare, no, non voglio fare niente, capito? Via. Sandro. Meno male che non sei entrato, ho entrato sì. a 97, avevo una revisione attiva, una controllativa, dice sono faccio i contatti qui, non è niente. Però dice la modifica viene molto bene perché è già pronto, c'è un ultimo rotatore, infatti dentro, prima di venire, lo faccio vedere. C'è un ultimo rotatore dentro, già. E poi c'è una scheda già pronta, piccolina, non so cosa serve, non è perché forse quella lì è già dell'eco, vuole collegare. In caso contrario lei aggiunge quella Colt, visto che c'è il doppio modulatore, non c'è bisogno di modificare i canali, modificare i modulatori, quindi cosa devi modificare? E ci si lasciano i watt su e poi quando spinge con l'eco lo senti come salgono i watt. È stata una cazzata a fare. Certo, vuoi far modificare tu, ma ci non c'è problema. Questa è la parlante. Binario 10, senti qua. Non sai che tu mi hai rotto le palle, eh? Entri, ti chiamano, sparisci. Ma cosa ti hai messo in testa di fare, bello bello? O ti leggo la bretella? No, lo sai che sta cazzo io, no? Non è questura. Stavo facendo una cantina e... Ma chiamate anche tu, lo vuoi sentire a Pierpaolo, ma poi, boh, chiamato, non c'era nessuno. Li fai, c'è il palito. Positivo, va bene, dai, iniziamo, dobbiamo fare. non soffrendo, ma una fredda nevale. Sì, per stare in compagnia, caro, capito, ieri ero a casa, oggi siamo a casa sua, allora vai a casa di Gavino. Sì, sì, va bene, guardate che vuoi qua. Io mi dice da tutti lontani, non c'è nessuno qua stesso. Ieri mi sono accorgato la mia sorella, però poi un casino, capito, devi fare da bravo, poi i miei nipoti sono peggio di me, sono più grandi, quindi quando ci sediamo la canzone guida, pare di vendiera, invece ci si sente di vendimino. Positivo, va. Io sono quasi arrivato, Luca, mi ascolti ancora qua, dall'altra parte della città? Buonasera anche a te, cioè di nuovo buonasera. Sì che ti ascolto, ma a te ti ascolto dappertutto. Ma dove sei? Vado a Porto Torres. A Porto Torres? In che zona? Rotonda. La rotonda di Balai. Adesso l'ho sorpassata, dai. E poi ti devi mettere quando bene. Ma lineare c'hai sotto? Ehi, lo sto provando, si sente? Adesso già ti sento, adesso già ti sento, ma prima non ti sentivo. Ma Similia, lo senti a B2? E a voi non lo ascolto, non so se lui ascolta a me, cambio. E a voi, ciao Similia, alla grande. E io sono le tre palate, io dentro Sassari però, capito? Ah, andave, andave. Quindi funziona bene sto coso, cra. Ma tu non mi sembra porto, tu mi vai a Sassari a me. Sei fatto rocca. Sì, qua c'è, se sì, vuoi segnare. Tony, sto scorgendo verso la chiesa da lontano. Ah, io si è alzato, arrivai oggi, ti ascoltano per 20 in macchina, Foso Massimiliano, qua sei 9 più 10, sarai a dare il Daredo. Dai, sto qui, guarda, adesso la chiesetta di... 9.25 qua, adesso intanto cala perché... Io sono sotto casa mia suocera. Sono la discesa. La discesa, tu sei in treno di Gallerini, sei in treno. B2, mi ascolti ancora a me, B2? Già ti ascolto. A me ne ho segnale lì a Porto Torres. Adesso ma ti tiro fuori, dai. Cavolo, voilà. Claudio, ti saluto, vai. Ci aggiorniamo per quell'Uranus. Non ci sono problemi, Caritas. Non ci sono problemi. Ce lo sai dove trovare. Non va c'è guerra, non vedo una tata. Aspetta, guarda chi c'è. Saluta Dio Claudio. Ciao, Claudio. Ciao, mia lì. Dove stai andando? La nonna. La nonna sta andando, sta chi? Dove sei andato? La nonna. La nonna, no. A mangiare la pappa. Via. Via, Sarà brava, mia. Non la farò dire la nonna, Positiva. Oh, cagli, sto scendendo. Quindi ora vuoi, Luis. A pigliarla, vai a mangiare. Già, te l'ho detto una volta solo io. Però non te dico più. Ciao, buonanotte, buon divertimento, buon consiglio e ci sentiamo. Saluta anche a Lucari. Ciao, ciao. Sì, io sono un collezionista, quindi, se tu sei un amante di altre cose, già lo sai dove trovarmi, ci vediamo di persona, ciao. Gava gava, ciao, ciao. Ciao. Ci ascolti, ciao, ciao. Beh, ciao, adesso chiudo anch'io che sono arrivato a destinazione. Dai, ci sentiamo, se mi ascolti ancora. Sì, va bene, ti ascolto stasera, non ci sono problemi. È meglio in ostacchio questo coso, se no... Boh, non so se posso disturbare a qualcuno. È che mi disturbano, ci sei in macchina, sei con un gamper che devi... Non c'è nemmeno disturbare. Non ti mettere sotto i palazzi, ma se sei in zona buona, non c'è problema. Mi hanno prestato un lineare che pompa forte sto coso. Oh, quant'è? Un B300? segnale B303. No, non è quello lì. E adesso ce l'ho imboscato, non mi viene male a vederlo. E cos'è un B300, cos'è della ZG? Della ZG, è color oro. Forse il B303, esatto, B303. Quindi già va bene, 150 watt, no, già va bene. Vai benissimo, meglio di prima, sì, almeno ti sentiamo adesso. Ah, vabbè, dai, ci sentiamo che chiudo, ciao ciao. Ciao IGL, grossimine, anche io mi ritiro, dai, mi sono rotto, sono tra la sera qua, sentiamo dopo, ciao a tutti. Ma ci sei ancora? Scherzando, sono a Sassari. Mi prego, ma sono ancora a segnare. Di sotto casa tua. Ehi, poco ci mancava, se tu hai fatto le alle gallerie, vuol dire che mi sarebbe la scala di gioco. No, qua al... come si chiama? Al centro commerciale, qua, in via... all'Inse via Italia, dai. Ah, centro commerciale di Monserrat. Sto andando dai fratelli La Bufola a mangiare una pizza. Sempre con un camper? Pura. Sempre con un camper, io giro o in camper o in Harley. Boh, macchina non raggio. Non voglio andare. Non voglio andare. Ma con la piazza di quell'inearino, ce l'ho. Quello ZG B303, lo devo qua a piazzare, quando riuscirò a levarne il banchino l'hai incastrato qua, boh. Modulazione, va bene questo microfono. Dai, ti lascio, che ora scendo. Ciao Cla, ci sentiamo più tardi magari, ciao ciao, buonanotte. Ciao, ciao, io mamma mia, ciao. No, buon appetito, dai, ciao ciao, sto chiudendo, ciao. Ciao. invece tu, Falchetto, stai, sei a picchi e arrivi lì a 9.30 a spaccato. Scusa, Falchetto, ma che perché stai usando Brone? Perché? Così. Mobicom MB45. No, quello voleva riprendere il gioco in FM, quanto gli aumentava lui. Ma tu copiato, se non abbassi un po' davvero, ho la colonnina del mio apparato, però non riesco a sentirti bene. Mi ha regolato, non me lo fai toccare. Ascolti, dicevo, fa la voce bassa. Quanti ribitti aumenta a te quando metti in FM, il mio segnale? Beh, tutto 9.30, non, cosa aumenti? Non c'è differenza, sei sempre 9.30. Allora, facciamo una cosa. Adesso tu devi vedere, scusa, perché qua c'è una prova che c'è un dato che non mi sfagiola, ha attaccato apparecchio. E tu ti fai un passaggio prima in AM e conti sino a 10, e poi in FM e conti sino a 10. Ma di Roggero. Ma... Tu prima fate un passaggio in AM e poi in FM, dimmelo quando vado in conti a 10 e poi a 10 in FM, per favore, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that is important. che bello. Ah, il falchino. Tu sì, ciao, già, mi hai sentito. Buonasera a tutti, da. Buonasera, buonasera. Mi si bacita a quest'ora, lui. Volevo fare a far come? Magari. Dice che sto entrando adesso, mi è acceso in questo momento, che ero al PC. Mi è acceso adesso. Chi c'è? Allora, ci dovrebbe essere Antonio Grode, Claudio e Fabrizio sono su, quindi ci stanno facendo le prove. È sottoscritto, basta, per un momento. Qui c'è la B2, non so se B2 è di ricerca entrando. Prova a chiamarlo se c'è. K, B2, ci sei. Buonasera, buonasera, sono sempre qua io, sempre qua. E dove stai modulando? Al camper? Porta, solo lì ce l'ho l'apparato. Ah, pensavo che l'avessi anche nel mezzo, dai. K, K. Vabbè, Bidu, qualche cosa di fatto, no? Qualcosa è fatto, perché ti sento più bene stasera. E mi sento meglio. No, sono agli punti. Ecco, ecco perché sei in girella. Ero a Sassari, ma già è un qualcosa. E adesso me ne riscendo alla mia città natale. Fa partare. Benemeda, dai, benemeda. Come mi ascolti? Benissimo, senza nessun problema, benissimo, come sempre. Anda bene. Sono contento per te, dai. Avanti, Grode, ci sì. Deve essere spostato già. Ah? Cavagaba. Allora, tu. Come è andata, Luci? E con cui si è andata? Come tutti i giorni, stavo leggendo di quel ragazzo, un braccio che è morto lì a Udivuti, porca miseria. E io l'ho visto quell'incidente. Subito dopo che era successo c'erano ancora le ambulanze, caricando e faccia. Porca miseria, un braccio. Quello lì, a quanto pare, dice che uno è uscito dal rifornitore e gli ha dato un colpo. Mamma mia. E non è colpa sua. E allora tu colpo l'ha fatto sbandare, ha preso il cordolo, la lampada rubata, da qui ha volato e ci è uscita la nota corsia. Per carità, guarda, ci vogliono sempre 4, 5, 10 occhi, va. A te per colpa della gente che non sa guidare, ti ammazzi tu. Quella donna che c'era la nota corsia con la panna mi ha detto che sembrava uno di quei film di fantascienza, tipo quei dischi che volano, ha detto che ha visto la macchina volando, e volando verso di sé lì ha sterzato, e meno male che ha sterzato, se no sarebbe andato sopra la capotazza e l'avrebbe schiacciato. L'ha presa lo stesso, ma l'ha presa di fianco. E la fortuna è che lui ha magari ha avuto quel riflesso di quell'attimo di riflesso di riflessi che abbia sterzato, se no va a prenderla in pieno e bastava anche quella donna. E quella donna non si è fatta manco un graffietto, niente, la verità è che io sto bene. Mi dispiace per quel ragazzo, perché l'ho visto che ci aveva tutta la testa spaccata. Mamma mia, io. Mi ha detto che c'era un taglio un bel grande in testa. Beh, ci posso credere, magari ha picchiato la ramiera e gli ha spaccato la testa. Certo che riprendeva tutta la testa a taglio, era un bel grande. Mamma mia, bravo. Io da poi lo zango qui vino, ogni botta di zango, uia. Io come ho visto le scarpe in ferro ho detto, oh, questo qui non se l'ha salvato. Quando ci sono le scarpe, ricordati sempre, quando ci sono le scarpe, il 99,5% è morto. Perché non gliele tolgono o le perde? Le perde, perché si spegne il piede e le perde. Ho capito, bravaccio. Quando è così, vedi i volti, sempre c'è... C'è sempre qualcuno che è morto, non hai visto anche quello che è successo vicino a Cagliari? lo stesso che erano tre ragazzi in macchina, o quattro, tre feriti e un morto. Sì, tu l'ho visto al telegiornale, sì, un'altra bella botta, lo ripresi inizialmente. L'ha tamponato, i gatti, diceva, è tranquillo, l'ha tamponato, deve essere veloce per lui. O si è distratto, non ce l'ha fatta, cosa ne so, cosa è successo? Abitato in pieno. Infatti stavo dicendo il telegiornale che vengono qua ad analizzare il sangue per vedere se aveva fatto uso di stupefacenti o se era ubriaco, una cosa del genere. E adesso la prima cosa che fanno è quando c'è incidenti è così. La prima cosa che fanno ti prelevano il sangue. Ma mai ne succedono queste cose, per carità, mamma mia, ci vuole degli occhi, guarda, proprio gli occhi. Per un momento basta la distrazione, basta una cosa, può succedere anche che ti cade una cosa, io perché in macchina non gesticolo mai, no? Quando sto guidando, punto, mi ne cade una cosa, la raccolgo dopo quando mi fermo, me ne affutti, invece c'è gente che si inchina, la raccoglie e poi a te Luca poi si acciappa la macchina da là. Sì, non mi è capitato lì, via 25 aprile, stavo rientrando. Pigliano queste due ragazze col cellulare, ascoltavano telefono, non ce l'hai, non si sono accorte, stavo passando io, aggiornare, io me ne sono accorto, ho frenato. Aggiornare, messo tutte e due. Sì, è così, poi quelli col cellulare non se ne parla, sono distrattissimi. C'è il viva voce, ci sono tanti modi per non tenere il cellulare in mano, intanto non lo usano. Infatti non ascoltano volume, ci siamo tante le belle persone che hanno questo cellulare a tutto volume, con le cuffie, non si rendono conto quando passano, ma è una cosa allucinante veramente. Molta gente non capisce che la macchina, com'è bella e anche brutta, è come tiro mare, è come tiro fuoco, è la stessa cosa. Sì, è vero, già. È vero. Non basta mai l'attenzione, non basta mai. Bella perché ti fa raggiungere chilometraggi lunghi in poco tempo, unisce le persone perché si sta tutti qua in greve, ti fuma la sigaretta come si faceva da ragazzi, eccetera, però è anche brutta se non la sai usare, se non stai attento e se non rispetti i segnali soprattutto. Soprattutto quello, ma c'è parecchia gente di strada, veramente, vabbè. E sta diventando un problema molto molto serio. Anche quello del vedramo di Muti, quella ragazza che era bagnato, che era vestito lì e l'hanno ucciso, o uccisa che sia. E l'amministrazione è una cosa, guarda, fuori dal normale, guarda. Una notte stavo ritornando dall'alforo lì, la di Muti, questo ragazzo stava attraversando per andare alla fermata, no, era arrivato col tram, stava attraversando per andare a casa sua con la borsa della palestra, sicuramente faceva palestra nei passaggi pedonali, una macchina si è fermata, l'altra sorpassato, questa biliardo in pieno l'ha fatto pure davanti allo cimini, io dal baracchino gli ho detto a Giampa, un attimino Giampa, c'è un varato correndo, meno male c'era un dottore, l'abbiamo controllato, l'abbiamo chiamato l'ambulanza, subito ti l'avevo buttato. Si è fatto male? E l'ha fatto male, però già era cosciente, cazzo l'ha fatto volare, meno male che aveva questa borsa, probabilmente lui è caduto sulla borsa e ha attutito un po' il corpo, comunque era cosciente, gli faceva male il bacino. Lo abbiamo controllato col dottore, io li tenevo la pila, abbiamo controllato gli occhi, era abbastanza tranquillo perché tu se avessi se c'è un trauma cranico un occhio si chiude, l'altro rimane aperto, uno contro il suo, capito? Ha controllato bene gli occhi, tutto quanto, era a posto. Lui ha detto che ha sbattuto il bacino al parabrezza, infatti il parabrezza l'ha spaccato. Pensa un po'. Ma già, che faccio una carichetta veloce, se due ci dà troppo. via, cerchiamo dopo, ciao ciao. È Grudino. Ma dove eri finito? Cosa stavi provando il lineare, no? Quando? Sarà due minuti fa. No, era Fabrizio che doveva settare uno smitter e c'è che ti farò una corsa greca sul 15. Ah, cava cava. E allora, andato sì, almeno. Ma io oggi mi sono trovato il ponte domani. La grande festa, ci dovrebbe essere anche lo sparviero di Claudio. Sì, vuole essere le 8:15, dai. Guarda un po', com'è questa radio? Ti piace? No, è robotica. Allora, togliamo tutto, guarda come gli dico, si è migliorato, 1, 2, 3, prova. Dal giorno alla notte è cambiato. E dalla notte al giorno, meglio. Vabbè, dal giorno alla notte, io sono pipistrello. Se DM1000, che come sostenevo io, una volta che ti abbassi le stazionarie, per prendere ad essere un microfono, capito? Vabbè, normale, sono stazionario che fischiano fischia. Normale, non è il microfono, sono le stazionarie che lo fanno fischiare, perché è amplificato, e tutti i microfoni amplificati con le stazionarie frusciano. E c'è un rientro di RF. E va bene. Chi è che ce n'è ruota? Oltre al Farchetto che ho sentito che è andato in Guerretti. Nessun altro, penso. Dice che c'è Claudio Fabrizio, non li ho sentiti nemmeno, che sono andati in questi greca, stavano provando delle apparecchiature, non so. Cava. Niente, domani che cosa c'è, Grobe? Domani per il calendario, per il santo calendario dei Toronai, c'è festa all'Olmedo. Dopodiché invece dopodomani ci sono tre piazze che sono Olmedo, Saccargia, c'è la festa dello sport che inizia presto, e poi quindi sempre Olmedo come ti ho detto, e poi ci sarebbe anche Monorva c'è una bella festa lo stesso. E tu dove vai? Io faccio Olmedo, cioè la festa dello sport a Saccargia la mattina e poi la sera Olmedo, però molto probabilmente mettiamo più di una postazione, quindi saremo in 4, in 6, poi adesso vediamo. E beh, perché non le mangi una anche a Bonoli? Purtroppo lontano, e poi non ho persone così fidate, c'è un numero di tale di persone fidate da poter mandare lì, capito? Kappa. Guarda, ieri mi ha crepato, mi ha stancato la giornata ieri, è micidiale. Mi ha davvero spossato. Come tu dovresti trovare il punto più vicino? Perché praticamente... Sì, sono allucinante, che punto è presso la Fabrizio? Vicino a stanchezza e tutto. Io. Allora io. Ah, cosa? Arborea un bel lontano, ecco. Poi ho visto una tabuna... Come la Monica c'ha quella radio, Sei Claudio, sì. E non con l'armonica c'è quella radio, ti porti appresso a Fabrizio. Appa. Ma cioè nel senso, riesci a sentire lui tramite me? No, ma te parlo lui, sento a te. Sento a te. Kappa. No, è una bella radio questa qua. Poi l'ho fatta tutta verde. Gli ho aperto il frontalino, gli ho messo le cuffiettine verdi, volevo blu però le aveva finite. E vabbè. Lui è poi di copertina, non mi interessa. Non sono squadra, è proprio un'armonica. Attenzione, delle migliori chivi. No, ho controllato, è tutto a posto. Ho fatto tutti i canali e non sta creando problemi. A te e agli altri? Va bene, centralizzato, quindi se ricrea a me, ricrea agli altri. Mai visto una cosa del genere, ma buona, se posso davvero. E perché scusa, ma siete sul 15? Sì, stiamo facendo le prove, ma sento la tua voce, vanno a parlare a Fabrizio. No, vabbè, allora basta, non c'è problema. Ascolta Grobe, io poco fa ti ho detto se stai provando a disegnare, perché ti ho sentito anche io di splattere. Non ti ho mai sentito, non arrivavi da qui a lì. Da quando hai messo le antenne ci venderanno, poi sì. Ah, ehi, e cosa sarà? quarantena sono diventato cosa? Se stai l'amplificatore attaccato con quell'antenna vuol dire che l'antenna funge e quindi dopo ti sento con la calefa, mai sentito, non sento ancora da pomponio, disastrato com'è. Va bene Roger, vado un sacco, dai. Occhio l'antenna, non so, controlla, a me non mi devi entrare con la calefa, è impossibile. È impossibile, sento la tua voce, io sono 15 quando parla Fabrizio. Da adesso dovrebbe andare meglio. Aspetta, è provo. Cava cava il cavaruggero. No, ci mancherebbe solo che i problemi qua. Meglio niente. Meglio niente. Io poco fa la battuta te l'ho fatta perché ti ho sentito, capito? Tu mi hai detto, no, è Fabrizio che sta provando. No, no. Era la voce tua. Adesso non ti sento. Io sono con un quarto e mezzo. Facciamo proprio Fabrizio. Adesso non ti sento. Quindi è proprio quando accendi l'amplificatore. Sta pompando parecchio, ma è quello piccolino questo. Adesso io tu, io te lo sto dicendo. Non mi entra la cosa, ma Antonello, se io mi sposto le due canali non lo sento più. Né con la T50, con nessuna radio, a te ti sento sul 15. Quindi non sono splatter, quella è un'armonica, c'è qualcosa, qualche spuglietta che manda quel linearetto, boh. Sempre possibile. Ma adesso come va? Tutto bene? Adesso non ti sento. Ma no, va bene. Noi siamo vicini, ecco. Guarda che siamo molto vicini. Io quando sono salito sul tetto realmente la torre la vedo, la vedo. Sì, vabbè, la torre si vede a casa di Luca, se per quello non è un problema. No, ma non vuole fare, a prescindere che tu possa usare tutta la potenza che vuoi, non... Cioè, se un baracchino va bene, ma questo è una carezza, non è che... Sto andando con la T50 con un watt e mezzo, 2 watt. Ho abbassato proprio tutta la potenza per far tarare la radio Fabrizio. E ti sento con la T50 con gli attacchi. Certo, sono 5 canali di differenza, stai scherzando. Ma non è che è per questo microfono piuttosto? No, no, no, non ti sento se non attacchi. Se attacchi c'è qualche armonica che sta viaggiando per i cacchi suoi. Vabbè, dai. Grazie per avermelo detto. Se vuoi riproviamo un attimino per vedere, perché è possibile che abbassando... Prova un attimino, aspetta, eh. Ora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova microfono, guarda se come mi ascolti, se mi ascolti, cambio. Se mi ascolti lo stesso? Se mi parli sopra, ti ho detto che hai detto 1, 2, 3, se mi ascolti, cambio. Certo se ti ascolto, quella è un'armonica, non è uno splatter. Se Santiago 2. Ma 5 canali su, aspetta che stacco il telefono. 5 canali su, devo fare che cos'è? 27 135, un attimo, per vedere dove sta arrivando questa armonica. Ah boh, solo con l'attacco lineare ti sento. Cazzo. Forse la fosse la mia radio è andata a dirti, ci vuole anche quello, così abbiamo fatto l'amplificatore. L'altro è successo, ma stavo dicendo, questo c'ho il VU131, si attacco il 2001? Non ti ho mai sentito con il 2001 io, non mi hai mai disturbato neanche la via Rockefeller. Tutto è impossibile entrare in queste radio un po', quella è un'armonica che sta dando a quel linearetto, boh. Con l'altra antenna non lo faceva, con questa qui sì. Non so cosa dirti, il vero è anche che da via Rockefeller non è così diretta, eh. C'è una copertura di almeno 3 o 4 palazzi, a te non ti vedo minimamente. Come tu lo sentivi Antonio? No, io intanto stavo facendo, mi stanno alzando un po' di parte, stavo tenendo, ho sentito mi chiamare, ero col microfono staccato e stavo abbassando di 25 volte la potenza, era troppo alta per non rischiarla. Anche se pure volevo arrancare poi il picchiavo che salvo. Dov'è che stavo uscendo? Io lo sento con la T50 27 135 Santiago 2 quando attacco. attacca il lineare, non è proprio uno splatter, è un'armonica che sta viaggiando, cappano sempre un tonnello, adesso sono con una 5 watt pieni, volte 50, beh, strano, con l'antenna non lo sentivo. Ascolta, che canale è il 15? 27-135 lo sentivo io. Segnale 1,5-2, ma la voce è chiara. E che canale è? Il canale 15, 27-135. Lui parla qua e lo sento, 27-135 sentivo 1,5-2. Prova, numero di prova che ti voglio parlare io su 15. Vai. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione, attenzione Fabrizio, se mi ascolti. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No, io con quattro bande non lo sto ascoltando qua. Minchia, bebè. Hola, hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fabrizio, se mi ascolti. Grazie, bebè. Vai su 15, prova a parlare io, Fabio, se mi ascolti qua. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qua, 1, 2, 3, 4, 5, perché se no, quando sei da 5, perché ancora non ho imparato, e se ce la faccio, stavo per iscrivere anche dal 5 al 10, 1, 2, 3. Assolutamente, neanche sul canale 12 ti sento a te. No, io non ho con 4,40, non ho 50. Ma non ti sento. Non ti sento proprio niente, neanche sul 12, sull'11 ti sento, neanche sul 12 ti sento. Il problema è che lui non lo sento sul 12, lo sento sul 15, quindi è proprio un'armonica. E allora qualche armonica strisce o sta suonando, sicuramente, perché se lo senti sul 12 lo senti meglio sul 15. È strano, pensi che tira sulla potenza. Gracias. Allora, arriva 27.135, dovrebbe andare sui 54.270 e 108.540, 217.080 e in UHF in 434.160. In diretta, vediamo con lo scannerino, 160, non è esatta esatta, però ci sta scendendo. Lo passo, lo passo. Tutti i baracchini, quello mi alimentava tutti i baracchini. soltare in aria, minchia. Perché la radio era in corto e quindi non avendo protezione ha fatto saltare proprio l'alimentatore. Vabbè. Adesso Fabrizio mi mette a posto se trovai questi pezzi, se non li ordiniamo, pazienza. Va bene, Gianni, riprendi tu. Tanto non c'è. Ci sono. Non ti sono addormentato. No? Si prende la c'è. Siete sovramodulati? Con chi? O con bulldozer. Non sembra la voce di Gianni. Le prendi Massimile. E va, buonasera a tutti qua nel Ponte Nuovo, con la parte via. Ponte Nuovo? Non ti fermi mai, Fai una grinta allucinante. Hai una grinta allucinante. Io mi sono qui a fare mai niente da quel giro. Mamma mia. Per il caffè, è normale, no? Il grinta. A me la notizia della radio nuova, gliel'ho detto. La radio nuova? L'amplificatore? Sì, l'amplificatore del Rus. Luce, per me non ci sono problemi. Luce, io l'avevo preso, quello dato a Walter. Va bene. No, la bella notizia è quel mostro che deve arrivare. Sono fedeli. E chi mi viene armonica? Antonio Gò. Non ce n'è armonica lì. 1600 watt, ma la laterale 900 mm. Oh, sì, ma lo vedo fumo. Spaventato Roberto, che se non hai mai visto cos'è c'è. A parte me, comprati una scatola di PL che ne sceglierai uno ogni due secondi. E bello che io sono, mi chiamo Antonio Grandi, non compro a fusare PL. Sono già arrivati PL, sono già tutti pronti. Ho fatto una spezione da 1,50 di H1000 con due PL Anfernor in vetro, tenere che dita tu. Sopra il PL già Anfernor, sotto all'ingresso già Anfernor, non quindi il PL di base canoga. E neanche il RG58 c'è. Già è tutto pronto. Ti ricordo io sino l'anno scorso, anzi a 2 anni fa avevo il TL 922 che più o meno era quella potenza. Quindi sono sempre preparato. Piuttosto devo eliminare il commutatore d'antenna, quello senza ombra di dubbio. Lo eliminiamo, non c'è problema. Lo eliminiamo. E se mi gira il palo metto un'altra antenna diretta, uno da usare con l'amplificatore, la mantova con l'amplificatore è discesa, quella che c'è, con i piedi che ci sono, la Superstella 24, quella che ci ingaggi, le mettiamo nel RG58, la facciamo andare con i baracchini. Quanto va? Con 1600 va le regge? Le regge? Poi io non sono sempre in banda laterale. C'è le regge, 2 km regge davanti. Picco, non continuo con le regge. Non c'è problema. Questo è quello che ha detto Roberto. Ha detto a Roberto, vuol dire che è riuscito. Tenendo conto che è quello che ha modificato il VV131, quindi mi fido ciecamente. Hanno due cazzate, tutte due cazzate. Ha allineato tutto e ha misurato la tensione della nudica, che ha i vari visieri 25 voci a valvola. Io? Tu? Sto facendo un cazzo, non è? Vabbè, grosse, ciao Fabrizio e Claudio, allora, ci sentiamo domani se coincide. Guardate, Dario, che butto l'acqua. Facciamo una sigla con la caffeina, a domani, ciao. Massimilia. Ciao. Massimilia. Via. Ma qual è il mio posto di luce? Domani sera. Vabbè, ti aspetto allora. Senza microfono? Ho quel microfono non da palmo. Ho microfono, ciao. Bravo. Ciao. bella là. Quando è che ti trovo domani? Buonasera, dopo le 5 io sono a casa. Così anche tu te li tiri con l'antenna, ma avete rotto le palle, c'ho a casa prima di rubare gli altri. Scusa, ma come che si accorda? Te voli così tu con l'antenna? Ma una cazzata, sono in misura dello stilo. Mi pare, aspetta che guardo il foglio. Sicuramente l'hai sceso. Infatti diceva che ci mancava qualcosa. No, aspetta che qua. Vuole che vada perché mi ha non voglio fare qua che non voglio alzare il testo. Aspetta. Che mi fa dare, guarda, non ce n'è accorto qua. C'è una bobina che si vede. Non ce n'è accorto. C'è la fabbrica. No, il foglio è in quell'altra che mi ha dato quella. Quella ci contavi per i 6 metri. Alla fine è più facile. Come questa qua? Questa è lo stesso che sto usando adesso, la 2008, c'è un segnettino sull'ultimo stilo, e lo devi strozzare in quel punto lì ed è perfetto, 1-1. Devono essere tipo 163 in generale. non gliele dai come se, gliele, come gliele, se non le avessi neanche contate, gliele butti così. Dopodiché di queste 163 ne togli il 10%, tipo 16, perché una gli si può essere rotta, l'altra la può aver regalata, l'altra... Dopodiché moltiplichi per il prezzo e ci devono essere, no? E invece noi così, siccome non lo sanno, siamo muletotti. Quante volte si fa, si lasciano 50 euro per svivere, tipo dimenticate, anche sulla cassa. Io le prendo per dire, chi è che si lascia per 50 euro? Ah, per dire, il principale contano i soldi e cosa. È normale, lo fanno apposta. Io lo so. Non lo so, perché è una tecnica che usava anche una persona che conoscevo io, di lasciare il mazzetto dei biglietti da 20 così sparso, dove c'era la donna delle pulizie, per testare la donna delle pulizie. Vedeva, cioè, sembravano non contati, capito? A tanto certi buttati lì, invece erano contati al centesimo. Te ne accorgi qui, se la gente ne può dare fiducia o no. Io sulla casa... Il principale è andato praticamente a portare il camion al negozio, si è dimenticato sulla cassa che non stava funzionando, tutte le mazzette da 20, da 10, da 5, appena non vedi, insomma, sono entrati in negozio, questi soldi come sono qua, nel capo negozio, e si è dimenticato il principale, è venuto a cambiare i soldi, si è dimenticato la mazzetta sopra, se fosse passato prima di me qualche tipo malintenzionato, l'avevi abbigliato. Dov'è? Fabio. Ma infatti se ci sono 32 anni in quel posto non è per caso. Ma infatti, ma poi ti ripeto, le persone oneste si vedono subito, assolutamente. Fabio, ci sei? Tu quante volte mi è capitato di andare a buttarci il cartone quando non ce lo ritirava? Adesso ce lo ritirano qui nella mondetta, ma prima ce lo portavamo noi. A buttarci il cartone, a trovare dentro il cartone i pacchi di biscotti, cosa dimenticata, e per riportarla indietro. Volendo, dalla discarica potevo benissimo moscarla e via. Sì, a prescindere che non avresti fatto, ma poi per due pacchi di biscotti. Invece a me a sentire non è capitata una peggiore. Svuotando la cassa, perché ogni tanto svuoti la cassa, no? Per evitare di lasciare pezzi grandi dentro, perché tutto vuole andare, se te la rubano, ti rubano il fondo cassa. Quindi quelli sotto, quelli grandi li metti nel cassettino sotto. A un certo punto c'è un passaggio di soldi, però cosa è successo? Che avevo anche un tovagliolo di plastica, cioè di carta. Quindi mi sono girato, ho preso i soldi, li ho messi in mano e dopodiché ho dato tovagliolo e sotto cassa nelle mani di Pollicina. Arrivati dopo un paio d'ore, gli hanno fatto pressare proprio i conti, gli ho detto: ascolta, quanto è che c'è in tasca? E mi dice una cifra che è nettamente inferiore a quella che poi c'era realmente, che gli avevo passato. Cazzo, non ci aveva buttato un tovagliolo di carta e soldi nella mondezza. No, non vi credo. Meno male, non ce l'ha buttata la mondezza, spero. Mi sono messo la muta, mi sono immerso nella mondezza e li ho tirati fuori, ma tu immaginati, era successo 2 ore prima, sai cosa vuol dire piatti sporchi, pezzi di sacchette ciucciate buttate nella mondezza, di tutto era, mamma mia. Però lì l'ha fatto alla discarica questo signore cercando nella mondezza, cosa la discarica, ha detto, cos'è che sta cercando? Cazzo, mia moglie mi ha buttato un cartone che ci aveva in soffitta, che era tutto pieno di soldi, li mettevo lì, stavo risparmiando e mettendo questo cartone in soffitta, quella moglie ha riordinato, ci ha preso e ci ha buttato tutto. Capito? Dove io vi... Aspetta un attimino, scusami che... E vedevi gli spazi cercando in mezzo alla mondezza. Paolo, ci deve essere allontanato un attimo, capito? Ho rischiato di perdere incasso. Se te l'avessi mangiata a Pollicina. Sì, ma infatti poi è nata una piccola disputa. Io robe, uno non lo fa per mai, solo che bisogna stare attenti qui su, e non bisogna fare mai niente per camuffare, perché poi magari se sono camuffati come no, quindi non ti rendi conto. A casa è successa la stessa cosa, a casa mia moglie ha sparecchiato tutto quanto e c'era in volta mio padre, si aveva tolto la dentiera quando era vivo e aveva tolto la dentiera un coso di carta per non dare fastidio e cose, e mia moglie appoggio ci ha buttato tutto, sono venuto a dare il cassonetto con quell'affare della biancheria che tira quello che c'ha il gancio, cazzo, non ecco per la figura. Sì, vabbè, li ho visti via Rockefeller, non penso a cercare nella mondezza per questo motivo. No, dopo che è capitato, eravamo amici a cena, a un certo punto vanno via e quelle ci hanno aiutato prima a sparecchiare, sai come si fa. A un certo punto Pollicina sempre non trova più il suo telefonino e mi ha fatto fammi una telefonata, che sarebbe finito in mezzo al divano, che sarebbe andato. Faccio una telefonata e non si sentiva. A un certo punto nel silenzio proprio, quando fai silenzio per sentire che magari c'è da qualche parte, sentiva questo rumore flebile che veniva da fuori, però abbiamo un atterrato e si sentiva da giù il telefonino che stava suonando. Allora scendiamo giù, aveva fatto un volo di 6 piani perché qualcuna delle ragazze che ha aiutato a sparecchiare aveva abbigliato la tovaglia, cruzzola d'avura, ci ha partito telefonino e ha detto quanto c'era. Ma se non è uscita la batteria, manco mai. No, se hai ragione, perché giù c'è il giardino, quindi è andato proprio, si è infangato completamente. Però hai ragione, il rischio era quello, se fosse uscita la batteria, ha finito, ha perso il telefonino. Sì, non avrebbe suonato più, normale. Sono cose, sono piccole distrazioni che a volte ti costano, E vabbè, ogni tanto ne succede una. Che l'altro giorno mi sono preso un bello spavento, pure per l'incassi dei negozi, mi ha telefonato e mi ha detto che mancava un negozio, ma sai, sicuro, vai che non sei passato, ti sei dimenticato di passare. Ritorno, telefono, faccio, ma dice qua sei già passato, cioè, telefonato per lì che hai rilevato tutto. Sono salito su, mi sono caduto in terra, cazzo, io mi sono preso uno spavento, cazzo, da infarto. Che vabbè, guarda che non si devono dire queste cose, perché è meglio non far sapere che uno a volte porta incassi. A prescindere da quello, io ne ho fatto una, invece che sto piangendo ancora un cellulare, ma te l'avevo detto. E che appagato, io quando ho portato l'incassi sono armato. Vabbè, la vita non si vale nessun incasso. Ti stavo dicendo, io uno me lo sono bruciato il cellulare così, giocando con l'aquilone acrobatico, come te l'avevo detto, per fare delle riprese dall'alto, lo monto sull'aquilone e le avevo viste le riprese bellissime. Allora prendo, stacco di nuovo, lo riattacco all'aquilone acrobatico, tiro su, a un certo punto inizio a fare manovre per fare lo spiritoso, pum, si stacca dall'aquilone e vola in acqua, capito? Questo inverno. Sbagli che si pagano, sono cose, rischi che si possono correre facendo certe cose. Comunque, a proposito di portare denaro, c'era un famoso panettiere di Sassari che si pensava che ogni mattina in questa portasse il pane al direttore della banca di Piazza d'Italia per ringraziarselo perché gli aveva fatto un prestito, secondo le madrelingue. E ogni giorno il direttore scendeva e andava con lui a prendersi il caffè. A distanza di tempo si è scoperto che questa persona dentro quel pacco di pane non aveva pane, ma aveva l'incasso del giorno prima, che era talmente alto che anche il direttore scendeva e gli andava a offrire il caffè ogni mattina. Figurati. Capita. Dico, se proprio li devi camuffare, è sempre meglio, non dico tenerli quasi in bella vista, ma più li nascondi e più dai nell'occhio, meno li nascondi e più dice è una busta di pane, capito? Vabbè. ma io non è che lo faccio tutti i giorni, è capitato che lo faccio. Capo, però è una bella responsabilità. Ma stai innescando questo microfono, se dove c'è un innesco di filo, un fischietto quasi. Beh, mi ha portato senza parlare. Ma tu stai sognando, non c'è. Ma direttamente farla ascolta, sta creando problemi. Io lo devo passare un pochettino. Perché lo ascolti? Oh, perché un attimino l'ho ridato in cassa, quindi sento che c'è un rientro, un Larsen, come si può dire, sai che dell'effetto Larsen. Pagato. E vabbè, comunque. Oiui, è un casino se stai attento a queste cose qui. Fai fretta a perdere, a buttarle. Cazzo, quante volte è capitato che ci hanno buttati subito dalla spazzatura? Una volta una commessa c'aveva i soldi in mano, stava contando gli incassi tutto quanto, sente le urla, cade il figlio, sai cosa faceva? Usciva dalla scuola, attraversava la strada e andava in negozio dalla madre, quando la madre usciva dal lavoro se ne andavano insieme. Qualche giorno ho sentito solo le urla, dalle urla l'ha conosciuto, sulla macchina l'aveva investita, ha preso, ci ha buttato tutti i soldi nella strada, meno male questa signora l'ha raccolti e raccolti ce li ha portati. La cosa peggiore è anche quando scopri di averli lavati e magari ci avevi 50 euro in tasca, capito? A me quello non succede mai perché li metto sempre in portafoglio, non ne tengo mai soldi così. No, anch'io, però magari capito che esci un attimino da casa per andare a fare la spesa e ti metti il resto in tasca perché magari non hai preso il portafoglio. E comunque, ti ho chiesto prima se sapevi cos'era l'effetto Larsen. No, negativo. Larsen è quello che avviene quando tu metti un microfono di fronte alla cassa che sta amplificando e quindi c'hai quella specie di fischio perché il segnale viene ripetuto, no? È come se tu ti guardi con due specchi per cui l'immagine si riflette all'infinito. Che ritmo di RF? Lo dirò già in breve. Sì. Allora, come se fosse sotto quel nome lì, ma come ritmo di RF sì. Vabbè, comunque lo fa anche quando io, per dire, qua c'è il computer e ho avuto l'idea di comprarmi le casse, subwoofer amplificate, eccetera, eccetera. Un bel effetto, mi sono sentito quelle canzoni, Danza Kuduro, tutte quelle canzoni lì, no? Questi abici, ma cioè non si sentono bene. Lo so, se tu consideri che guarda si sentono al pari di quanto si sentono delle casse in legno magari con woofer o con i particolari, lo so, stanno riuscendo a tirare fuori davvero delle cose assurde da piccole cose. Il computer fa tutto, è una cosa allucinante, tutto. Il computer va in tutto, non c'è bisogno più di prenderti lo stereo, non c'è bisogno di prenderti più nulla perché puoi fare tutto karaoke, stereo, tutto. Avanti break. Sembra che ci sia un break. L'ho sentito anch'io, una semisovramodulazione. Avanti. Buonasera Grotte. Ciao Grotte. E anche agli altri amici. La facciamo tu. Si è alzato come segnale, sei leggermente meglio di prima quando ti ho sentito. Cosa hai spostato l'antenna? Non ho fatto nulla, no, che non mi metto a toccare niente. No, forse perché prima non lo so. È sempre uguale. Non ti ho visto. Poi di oggi. Cavagava. Quante che le avevi pagate oggi a quelle casse? La fesseria, a me pare una quarantina di euro, sono quelle tre più, cioè sono due casse piccole più il subwoofer con l'amplificatore. Là. 3 più 1, perché c'è 3 più 1 e 5 più 1. Sì, quelle lì, ne ho due paia, ne ho una nel computer grande e queste qui che mi sono comprato da poco, sarà un mesetto fa. Le ho comprate, sono della Trust, sono sempre quelle, ma non molto bene. Adesso a proposito di piazzare, devo piazzarmi l'apparato, cioè l'apparato del baracchino in macchina, del furgone più che altro. E mi sono comprato anche le spie di parcheggio. sarebbero queste scuole di parcheggio? Sarebbe quello che trovi nella macchina di, una certa, di un certo carico, ma ormai le stanno mettendo anche sulle utilitarie. Queste scie che ti segnalano attraverso un piccolo monitor, che è un segnale sonoro, la distanza che ci manca fra il paraurti e la macchina che c'è dietro, capite? Il paraurti di dietro e la macchina che c'è di dietro. Quindi iniziano con una specie di pip, alla fine fa un suono fisso quando mancano tipo 3 cm, 4 cm. Però c'hai anche una specie di monitor che attraverso dei LED ti fa vedere visivamente la distanza. Ah, e questo impianto quanto costa? L'impianto, la cosa costa una miseria, 18 euro, e te lo devi saper mettere, oppure te lo fai mettere da qualcuno, però la cosa non costa niente. Dimmi se funziona. Ma l'ho già testato perché l'ho provato, aspetta un attimino. L'ho già testato così a mano, nel senso che avvicinavo al muro queste specie di spie che ha, che poi emettono un segnale, no? Tipo pipistrelle, quindi gli dice il ritorno, gli dice la distanza che c'è fra l'oggetto e la spia stessa. Te ne danno quattro e le metti nel paraurti dietro. E poi c'è una specie di monitor dentro la macchina che ti dice centimetri in distanza, parte da un metro e mezzo, tu chiaramente lo colleghi alle luci in retromarcia, come si accendono le luci in retromarcia si accende anche lui. Quindi ti dice centimetri da un metro e mezzo fino a 3 centimetri e poi il segnale acustico. Forte. È bellino, è utile. Ma io sempre gli accerò l'occhio. No, ma è utile quando c'è la station wagon, queste macchine un po' come io la sto mettendo nel furgoncino, capito? Poi realmente le macchine in serie, tipo quella di Fabrizio, la Jaguar, hanno un sistema proprio visivo, ti fanno vedere realmente la distanza, ma se vuoi costano anche poco le telecamere, però quella lì è proprio una grezzata. Ce l'ha anche Barra Agricola, c'ha il monitor dentro con la telecamera fuori e ti fa vedere proprio quando ti stai avvicinando. E vabbè, io a Viravozzo. Quello che gli hanno dato un colpo dietro, adesso gli hanno rotto la telecamera e per il momento si vede tutto quanto a strisce. Quello che ci tirano un colpo te lo tirano più. Ma perché com'è la sua macchina? No, la sua macchina è l'Astra, è quella 1009 turbo diesel eccetera eccetera, però l'impianto se l'ha fatto lui, capito, se l'ha fatto fare dall'elettrauto. A parole, quanto vuoi, tu quando è che te la prendi la patente? Ciao, ma sì, appena che sto studiando. Ebbene, anch'io sto studiando, sperando che non mi buccino. Ma che affa? Perché, ma ti volevo chiedere una cosa a tu. Perché tu ce l'hai il coso, te l'hai preso l'impianto? L'impianto, questo qua che sto dicendo, in retromarcia? No, l'impianto monitor. Il computer? Ma no, non ancora. Me lo devo acquistare, ma perché adesso sto cambiando il computer, capito? Quindi voglio prendere un qualcosa di buono, perché prima c'avevo due cassettine solamente laterali e basta. Certo. Guarda, se vuoi non hai un consiglio, Bose e non Fage. Bose è buono. Ma che keyboard è buono. L'importante è evitare quelle sottomarche che costano poco e apparentemente ti danno e poi sono di pessima qualità. Perché i cattoli sono fantastici, guarda, io sto provando il cielo di prima persona, ho pagato un bel soldi, ma ho capito che il senso l'ho capito. Bisogna capire anche il senso, bisogna capire, perché c'è il conto quando senti la musica. E poi dico una cosa, che io mi ho caricato anche un amplificatore se non mi senti nelle casse, perché è una schermatura non ha paragone, guarda. Evidentemente sono buoni. Ho capito. E quando, dai, organizziamo comunque, già andiamo a pescare uno di questi giorni, sempre con l'esca finta. Ormai mi è messo la parola, non ne ho preso neanche una. Sicuramente adesso con questo caldo si sono ripopolate. No, sbagli. Col caldo non le prendi, prendi col freddo, sì. Infatti io quello che ho fatto andare, dicevo, quel periodo lì, e prendi solo col freddo. Caldo non ce n'è, non le bigli alcuna. Freddo ci vuole. Ma sai perché non hai preso nulla? Perché avevano fatto razzia, hanno visto il nero della sicchia e sicuramente hanno capito che c'erano e hanno cominciato a pescare, se ne hanno fatti tutti. Quando io sono andato le ultime volte con te, mi pare che ho preso una sola e poi non l'ho più preso. Yeah, perché se sarete così, se tu gli dici o ti fai vedere, il giorno dopo ce ne sono due in vento, capito? Ho amici lì, perché vanno lui con gli amici, nelle compagnie di caccia, i sasserisi non vengono fatti entrare difficilmente in quelle nuove, nelle compagnie di caccia nuorisi, perché sono fatti così, tu gli fai vedere un posto, il giorno dopo lo ritrovi con l'amico, o meglio con gli amici che stanno facendo razzia. Io non sono geloso, non mi interessa, no. Comunque è successo anche a me, è successo anche a me. Ma è una questione di correttezza, capito? Cioè, a parte che se tu mi dovessi far vedere un posto, io la prima cosa che faccio è questa, a parte che ci vado con te, ma se ci dovessi andare con un'altra persona ti dico, ti telefono e ti dico già, mica sto andando con un'altra persona, vuoi venire? Se non vieni ti dico comunque, vabbè, io ci vado, col tuo permesso, anche se è un modo di dire, però comunque mi metto nella condizione di farti sapere che vado lì. Ma uno che ti dà l'appuntamento e poi non ci viene, vado lì e me lo becco con un'altra persona, tu cosa fai? Cosa fai? L'ha già fatta lui, una figura di merda. E io l'ho già fatto di scandalo, ho detto bravo. Cazzo, meno male, ma io pensavo che tu non volessi venire, ma qua, ma là c'è fatto un bel discorso, sapevo cosa di. Ehi, vabbè. Si è bruciato l'amico e si è bruciato anche un eventuale altro posto, capito? E la fiducia soprattutto, io non do più fiducia a una persona del genere. Vabbè, sicuramente non è che giorno dopo te lo abbracci e te lo baci, sicuramente è un po' un caino. Una volta lì, lo sai che l'ho trovato, tanto c'era questo filo grosso nell'angolo proprio, no? Dove ti siedi, questo filo grosso attaccato, sollevo e c'era un carro armato con tre pulpi attaccati. Un carro armato o giocattolo? Armato, sai che cos'è? È praticamente un pezzo di legno con degli ami attaccati, tirati dalla lenza attaccata da una parte all'altra, con degli ami attaccati, e attaccati agli ami ci metti delle esche. Il polpo, come lo vede, si attacca, capito? Per mangiare l'esca rimane attaccata agli ami. Ho capito, mi sembrava che l'avevo visto già. Ho capito, che però li vengono anche già fatti, già pronti. Sì, tutto, anche i parametri vengono già fatti, te li puoi fare e te li vengono anche già fatti. Tutto. E te verranno i tre poi per attaccare. No, ho preso, io ho rimesso tutto quanto in acqua, non ne ho toccato. Non è la roba mia, sicuramente qualcuno l'aveva buttata per pescare. Erano belli avvigliati, vivi ancora, Ti hai preso? No, non ho toccato nulla, l'ho rimesso a bagno. L'ho rimesso a bagno perché è capace che il padrone sta pescando di fronte, ti vede che se siete casino. Vabbè, sai che una delle leggi del mare è che le cose abbandonate, che comunque sono immerse o comunque parzialmente immerse nell'acqua, diventa di proprietà di chi le trova. anche le barche. Ma tutte le barche. Che le navi. Che le navi. Anche le navi. Se tu lasci una nave alla deriva e uno le rimorchia in porto, è di sua proprietà. Allora, Concordia, l'ho provata io. Guarda, non sto scherzando, se tu riuscissi a rimorchiarla in porto e a provartela via, sarebbe la tua. E le leggi della marineria internazionale sono molto antiche, quindi prevedono tutte queste leggi che sono abbastanza arcaiche, cioè vecchie, capito? Quindi bisogna stare attenti. Un attimino di QRX per me, scusatemi che sto andando a prendermi un bicchiere d'acqua. Non posso immaginare. Tipo, ti conosco.